dark, dark, sto sopra il beat con camiar, trappando fuori dal garage, fumando bombe come Baba Man, sto sul tuo blocco come Batman, ti rido in faccia come Joker, cuciniamo sassi come Flintstones, ma gira a Roma non bedrock, pazienza corta cazzo lungo, sto volando alto come Dumbo, sono un re leone come Simba, pieno d'anelli come Ringo Starr, la tua ragazza porta sfiga, tengo sempre sei figure nei gista, veniamo a fumarci tua madre e tua figlia, gioco con la morte, gioco col destino, 3-7 alla slot, ironia della sorte, Roma e Baghdad, veniti a fare un giro a Parksland, stiamo in piazza e ci rodeci quella cazzo di collana, tipo d'acqua, i miei amici bevuti tipo acqua, sono un demone una Frankenstein, baby è la dark dark, in gola al toro meccanico, non farti prendere dal panico, baby la morte mi sta cercando, io nei monti a dove cazzo abito, la tua invidia mi mette a disagio, pianeta terra sta ruotando sul mio palmo, in gola al toro meccanico, non farti prendere dal panico, no Moncler, no Balenciaga, Peppe Zanotti, Peppe Zanotti. Buonasera, signor Parex, quando entro in banca, quando entro dentro, DPG, 777, siamo nel palazzo, non potrai fermarci, se non abli del denaro stai perdendo soldi, stai perdendo tempo, vuoi trascinarmi nelle tue cazzate, mi fai perdere tempo, mi fai perdere tempo, più spieghi e non giri le spalle, raccontano tutto, mio fratello sull'MD sta vedendo cose, sta vedendo cose, steso per terra, non capisco se è vivo o morto, nero su nero, come i talebani col volto coperto, Dark Boys, facciamolo, DPG 37 Dark Gang, Dark Polo, Dark Polo, in gola al toro meccanico, non farti prendere dal panico, baby la morte mi sta cercando, io nei monti a dove cazzo abito, la tua invidia mi mette a disagio, pianeta terra sta ruotando sul mio palmo.